se fa dopo anche lavoretto. Attenzione, Franco. Beh, lui è a muro, capito? Non è mica inutile. No, ha chiuso. No, ha detto pure se stava chiudendo un apparato, tutto qua. Poi ho provato, sta arrivando anche più in basso anche a me di segnale, infatti è liscio. Ma infatti no, non stava arrivando tanto, c'era un altro apparecchio perché io ieri li ho sentiti, mi arrivava molto più forte. A me Franco. Adesso così va bene, perfetto. Ma io non ho capito, 680 che cosa? Ha detto che il 680, che cosa? Ah, ho capito, mi interessa, Franco. Lo so. Solo quello c'hai. Solo quello c'hai. O qualche altra cosa più o meno analoga. Capito. Meglio. Domani me lo farò anch'io, vai. Andiamo bene. Sì, perché si dico che ho mandato lo strato, cioè diversa dalle altre, infatti ho chiesto che cosa stai usando. E c'è buono. Io qua sto usando 5 watt. Adesso sei 9.20. Aspetta un po'. Adesso arriva Emilio. Allora va bene così. No, io adesso devo 5 watt. Ci sentiamo cosa nuovo a massima potenza in RF Power, perché intanto 10 watt, ma andare 5 watt. Ci sentiamo abbastanza bene, Franca, voglia. Niente, ci siamo sentiti con Gianni, ho detto no, mi guardo la TV, al baracchino. C'è poi Barbara D'Urso che è inviato in me, però fai come vuoi. A Barbara D'Urso è inviato, vabbè. È una bella donna, però a me mi è antipatica che è una gallina, è brutto. Sì, non è mara. Si chiama Carmela, si chiama lì, vabbè, nome d'arte Barbara D'Urso. Andò bene. Domani qui devo andare di nuovo al dottoressa che mi fa la medicazione dietro e ciò con i punti. Poi sono dei punti che si dissolvono da soli. Però io ho letto su internet che ci vuole un minimo 8 settimane, 2 mesi sono me. Piano piano, ho pazienza. Fanno male, maledizione. A me mi pare che io faccio ritorno a lavorare. Lavoro un po' di come piede a luce che c'è in pensione. Meglio usci. Beh, Franco, cosa stai combinando? Se avessi smesso forse va meglio, Franco. Non lo so, non si sta più bene. Io fumavo quasi 2 pacchetti e più di una volta sono uscito a mezzanotte a pigliarmi le sigarette per il vizio che so avevo. No, ti dirò che sono 6 anni che ho smesso, mi sento anche meglio, la verità, in tutto per tutto. E quando rientravo dal lavoro a casa l'uviavo le sigarette che in dimioga si impregnava la roba, tutto, per carità. No, adesso ho detto sento solo profumo e blu. Sì, la radica ho smesso io, sarà giù per 10 anni gioco che non fumo più. Cazzo, tu hai solo aumentato un po' di sigarette, ti fai un biscotto, più di 10 anni anche un pacchetto, ah, Fernande. Gioco, Ah, non mi interessa. No. Non è roba che riguarda me al fumo, più. Un bel po' di anni fa ho smesso. Ma ce la faccio che mi stavo ammalando. La sigaretta è maledetta. I polmoni. Dice che mi ha rimasto perso in televisione. Ecco, così almeno non trova sottofondo la televisione. E qui ho in camera c'ho il televisore 40 pollici, mentre il cucino ha messo quello da 50. Hai fatto bene. Però mi voglio prendere 60. Però quello non ha 22 pollici in camera di quello da 50, sono mette in cucina. Questa non è la tua vita, con te. Era uno da 22 pollici, della Philips, di quelli un po' vecchiuti, mi dà quello da 50. Però sei matto. Ah, c'è già un du. Ehi, con te. Oblice che? Cazzaparista è mia tua, bubu. Guarda, io trovo San Gomare 50 pollici. Mi vai 600 euro tra l'altro. Guarda, io ne ho uno qua da 55, lo devo sistemare. Adesso, prima volta rimane lì. Ne ho 1, 2, 3 da 32, di cui 2 smart e uno normale. Uno normale di tutta la generazione. Ma io da 32 l'ho sempre regalati, capito? Niente, perché adesso quello che mi prenderò da 60 lo regalo a questo da 50. O quello da 40 mi regalo, non lo so. Non so che ho regalato io ai parenti. Non capisco, ma come dove metto da 50? Massimo un 40 pollici, ma va bene anche 32 a me. Ce l'avevo pure il 40, l'ho venduto. A me piace grande il televisore, la verità. A me è meglio, se avevo 80 non mi muovo da 80. Ma lo, ci vuole il posto. Il posto non è posto. Ma poi non mi interessa. E poi arriva almeno quando ti si rompe, proprio quel giorno lì, se ti si rompe, poi da via devi pagare. Vabbè, perché mo tornate e ho poi ingombrato, devi pagare. Ho mio cugino sul furgone grande e coperto qui, non c'è problema. E poi potete vedere quando porti l'assistenza. Diciamo che sei già guarito che si faccia. No, a tu, a te magici. No, non so di più, no, ci manca. Non so come dici. Il discorso è che se ti avessi così grandi, non devi pensare. Purtroppo è così, vabbè, avanti. Ma no, vabbè, cosa c'entra? Non è che. Spero che non si rompa mai, cioè uno spera. Comunque se ci sono televisori che ci sono da anni, che non è mai successo niente. Oh lui, se uno pensa a questo, non farebbe mai niente nella vita, perché pensa, ho una panda, cazzo, mi vedo comprare un Audi, no, ma poi si rompe, cosa di più pizzi, cosa del mondo, la situazione, comunque preso venuta una. Uno rimane, ma ho quattro case prima, ho un bicicletta. Non so buon di barragione. Ma il televisore di gatto lo meno io no. Guarda, se le fate chiamare questo 5 a questo 55 che ho, è nuovo come. Devo praticamente comprare un altro mobiletto, un'altra cassettiera, affiancarla. Ah, ci sta, altrimenti non ci sta. No, io c'ho un mobile molto grande, è quello da 50, è un giocattolino con fronte al mobile che c'ho io in cucina. Non ho problemi per quello, capito? Andando via, se Franco ha ripreso, Franco, come il bagno è? Mi piace più nel muro, mi piace. Mi piace attaccato nel muro. Oh, hai scritto bene il microfono, perché all'inizio sei uscito male. Stavo guardando, stavo guardando. Va bene adesso? Capa. Beh, io preferisco di più un telefono. Insomma, un telefono magari pagarlo di più, un telefono buono, veloce, piuttosto che un televisore. Ma io proprio il telefono, guarda, lo uso solo per telefonare e basta, non mi interessa più di tanto. Adesso lo faccio al computer, quindi. Il telefono, c'è un telefono, un J7 della Samsung, mi va anche troppo bene. Non mi interessa che qualcuno non c'è, c'è un telefono da 800.000 euro, ma a me non me la fotte nulla. Io questo sono già 3 anni, grazie a Dio sta andando sempre bene. Quando si apre il tutto ne compro un altro, punto. Allora, infatti quello che ho io, questo qua costa 700, cioè è costato 700 euro. Invece l'SSI che ho ancora, quello quasi 1000 euro. Ma io so che il telefono ogni 3 mesi cambiano, svalutano. Se uno costa 700 euro, dopo 3 mesi televisione uguale in presento. Perché così? Ma che il mio non tiene ancora il prezzo, 500 euro, 4,90. Io non lo farei mai una cazzata del genere. Perché, ritorno al tuo discorso del televisore da 80 pollici. Quindi, 700 euro, ti si faccia, cazzo. Lo devo fare cosa e quanto costa, e pur mai sei stato dentro, devo aspettare che non è giusto, insomma, alla fine, io con 700 euro. Anzi, io per 10 anni ho un telefono tranquillo, perché se ne compro, non so, 480, a gamba di 700, a me ne esce il telefonini, ma... vabbè, a me se ne fa un lavoro, ma... devo avere un telefono veloce. Adesso vediamo, se tutto va bene, non sono sicuro, Volevo prendermi l'S20, bello, A me 4G mi va troppo bene, quello che c'ho. Non questo non mi interessa niente. Nel cassetto dovrei avere 5-6 telefoni, che mi sono caduti, mi sono rotti, non funzionano più, non accendo, si legge contro la massima, e sono sempre con questo. Quando non funzionerà più tutto qua, sarà la fine degli altri, e recupero il giro. Beh, giusto. Franco, sei entrato? Franco, cioè, mio è... io mi trovo benissimo, questo è il re di me, sciomi. Ho preso anche, cioè, l'ho preso anche alla mia compagna. Ci troviamo bene, funziona come una meraviglia. Se ti trovo bene, giustamente, va bene così, capito? Capa, non sono super costosi. Oh, se voglio già c'è anche super costoso di quella marca lì. Hanno aggiornamenti, hanno antivirus, cioè, hanno aggiornamenti continui, cioè, vanno con una bellezza, non mi posso lamentare. Ma l'importante è che non si trova bene con il tuo telefono, poi è relativo. Io per comprare un telefono che costa a me e ha le stesse funzioni lì, poi cosa potrebbe cambiare un po' così in boom, ma non ho sfrutto il telefono, hai capito? Io se sono fuori devo andare su internet, già, grazie a Dio mi entra subito. Con 4G, a voglia. Posso fare cose più specifiche, a casa c'è un computer, e quindi entro lì, tutto qua. Bovera, chi è andato in bagno, attenzione, Franco. E cos'è il rumore? Franco, tu sì. Stai innescando, Sta innescando, sì. Poi quello che è bello, lo sai che cos'è? Che c'è una ricarica rapida, ricarica subito. Allora, il telefono quando è spento fa la ricarica rapida, quando è acceso fa la carica lenta, lo sappiamo. No, questo c'ha proprio la ricarica rapida. C'ha un caricabatterie particolare, c'ha, capito? Cioè praticamente in 10 minuti ti carica già un telefono subito. Ma guarda, io quando ero a Milano ho preso già anche Manuele con me, un caricabatteria. Addirittura c'ha 150.000 mAh. Quando metto con lui, poco tempo sono già carico. Vuol dire che c'ha il sistema, c'ha. Io c'ho proprio un caricabatterie particolare, che è più largo dell'altro, dell'altro normale, posso usare anche l'altro. Carica la batteria, la carica immediatamente, la carica. Ce lo scrive pure, si carica rapida. Però sono prima 10.000, mi ha aperto 150.000, in 2000 quanto l'ho pagato? Dietro la stazione. E tanto. E di mio prezzo? Non lo so, ci sono tanti prezzi. Allora, quello da 10.000 io l'avevo comprato proprio da Auchan, quando c'era Auchan, era 17 euro. Questo è 150.000 mAh, indovina? Stai innescando? Sta innescando, fra. Comunque tu hai levato 6 euro. Andiamo, questi qua sono originali, questo qua è proprio... Questo è così un po' di... non lo so la verità, così un po' di più. No, io con suo c'è un bel dinamico, perché vero che lui è scalato fino a 20 euro, passando, ho fatto fietro, ma io so questi qua, se lui è bene, se no ciao, è andato un'altra parte. pizza. Guarda, 5 ottozzo e spicciolini in centesimi. Sono andato a sera proprio in base di luce, tanto voglio dire. Scappa. La verità, io mi trovo bene con questi qua, ne ho avuto prima uno, c'ho già il secondo, ma è una gannonata, ce l'ho già un anno, ce l'ho, un anno e qualche mese questo qua, l'altro ce l'avevo lo stesso, non mi posso lamentare, soddisfatissimo, c'ha tutto di più, va anche in 4K, non ha poco di cose, poi ogni tanto c'è sempre aggiornamenti continui. Cioè io c'ho un LED e dice minima carica metà, tre quarti è il massimo, e se accendo il LED non è bestiale, non è carico, è al massimo. Non ho visto che carico il mio telefono, si spegne solo un LED e basta quando è carico il telefono, già va bene. Luca, ci sei? Anche il mio ha la carica veloce. Meglio, mi fidi fa. Franco. A me questo rumore è eliminato l'hai. Non lo sai così. Dai, dai. Prendi. Guarda che gli ha portati me. In bacchetta. Ma io l'ho provato sui miei apparecchi e vanno bene. E lì è capitato anche a Gianni una cosa del genere, a doppio blu, non riusciva a evitarlo. Si è ammassato di colpo, tu sei risalito di colpo 9,25 e c'è un piccolo innesco sotto. Capa. Sì, lo stavo eliminando e si è ritornato. No. Ah sì, perfetto. Ti metto un'antenna sul tetto. Cappa. Meglio. Io quando sto meglio mi piaccio come si deve la questione, per adesso è tutto bella conservata e quando sarà allora diverso. E vabbè, già le parliamo di verificare. Va bene, vabbè, comunque già si possono vedere questi giorni, se abbiamo un bel caffè ci prendiamo fra. E torna a bribar. Con questo l'ho mandato il cane mio in braccio e mi ha scritto bello toporoso. Se vi tratto un toporoso più bello. Io ripeto, ci vuole un'antenna sul tetto, perché tu c'è una bella posizione, visto considerato come arrivi qua con quell'antenna che ti ritrovi, se vuoi un'antenna così risolvere guai. Vabbè, lo so, hai comunque una bella posizione, una bella, cioè arriva così forse, cioè come io quando mi sono messo tu mi sono venuto io che rimango a stare così bene non ci credevo. si mette la tua antenna al centro con un palo di 8-9 metri, come riferite a te? Ho anch'io una bella posizione a quanto pare. Ho anch'io una bella posizione, come ce l'hai tu, fra? Scusate, dai, io vi saluto a tutti, buonanotte. C'è domani mattina da andare a lavorare. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao ciao. Ciao Antonio, buon condizione, buon tabacco, buon domani. No, io già ne ho ancora di riposo a Puglia. Non ne parla mai. Avanti fra. Già lavora lui per me, vai. Io sono in convalescenza. Ognuno deve fare un suo. E io tra poco me ne pensione, quindi sto contando meno 5 mesi. Cappa, dai. Dai, buonanotte a tutti, non ce la faccio più, sono molto stanco. Ciao ciao, buonanotte. Ciao a tu, si sente che sei stanco, vai, fai la nanna, riposati. È molto amato per domani. Avanti fra. Ammazza un pochettino il making in poco a poco, capito fra? Perché stavo pescando, sei troppo vicino allo sparato della mattina, ecco perché ti dietro innesco. È un po' di vercoso te la porta presso. Alza un pochettino, lasciala così che sono a bomba, perfetto, lasciala così, come sente l'amplificazione di tutto. Massa un millimetro perché stai di nuovo innescando. Perfetto, lasciala così. Io lo stesso sto usando le cuffie, perché se io tocco le cuffie mi innescami, guarda. Ehi, fa casino. E infatti io uso le cuffie, mi sento anche la voce mia e la voce tua, è più bello quando mi sento con la voce mia. Io per non riescare devo usare il mic normale, perché siccome il microfono è troppo vicino al tuo parlante, niente di innesco, allora devo usare le cuffie, oppure metto senza le cuffie e devo mettere il microfono normale, allora va bene. Sì, perché troppo vicino all'autoparlante, entra, capito? A meno che ti metti le cuffie, allora no. Capo. È abbastanza ultima come radio. Certo, non è come poco fa, però sì, è abbastanza ultima. Si sente col microfono normale, però è bella alta come radio, eh. Io se tocco le cuffie mi entra di innesco, perché dove ho appoggiato il mio tarde su che si dedica è vicino al microfono col baracchino, e quindi mi entra di innesco. Aspetta, io adesso provo, stacco questo, metto il microfono normale e mi tocco le cuffie. Ma io sono già verso il mic normale, come fa? E campa, adesso lascio il microfono, ma se io avvicino alla tua parlante, vedi? Vedi? Entra in mezzo, invece, dove sono io, sono circa 40 centimetri da parlante, non entra che penso, va bene. E cappa. Andami. Già va bene così, dai. Ci manca, non è che con le cuffie poi non si sa regolare la forza e la vita può bianca. Purtroppo è così, fra. Beh, anch'io non sento nessuno qua. Gli altri sono distanti, quindi non ho problemi, capito? Cioè, non mi capita musica, rischia, non mi aiuta nessuno. No, poi non disturbo nessuno, sono tranquillo. Hai visto dov'è l'antenna mia? Però una cazzata che ha giù fatto, eppure esco bene, gà. Se la metto sul tetto mi danno l'ok, ma non me lo danno mai, perché cazzo, quella cazzo bisogna che la stanno prendendo, quella è enorme, gà. Se la mettono sopra, guai, guai. No, ma io questa qua la lascio così come fra. L'altra antenna invece, che tu sai, ben sai, quella la voglio mettere al centro del mio cortile, dovevo fare basamento cemento, col tubo cementato, e dovevo mettere 8-9 metri di palo. E scappa, anche più alta rimane. Devo superare quel palazzo, fatto il conto, e se no il nuovo del cemento, voglio vedere. Sì, si sente infatti. Sì, entra di innesco, anche a me. Capito qua. Lui, io non mi devo avvicinare. Purtroppo è così. Questi baracchi è così. Davanti dove c'è la prendere la mia fiducia, Ginko, Emanuele, che anche lui c'è la mia dottoressa, e tutti e due che siamo operati, ce le o medicare o per dover del tutto, c'è l'altro che ce l'ho messo, però anche lei mi ha detto la scorsa, e dice dove di più, ma te lo tolgo del tutto, si faceva già con la punti, io mi sono già comprato la farmacia per ciò che non me lo metto per disegnare una vita. Sì, sì, io quei punti che si dissolvono da soli, però si assorbono. Però ci vogliono 8 settimane, cavolo. Non metto di nessuno, si sciolgono da soli, spariscono. Scappa. Va bene, purtroppo. E io mi metto il cerotto per protezione, anche se c'è lì a posto. Poi dopo due mesi, quando ho veduto per la cicatrice un zatto, è tutto sparito, ok, allora sono a posto. Sì, ma aspetta, io sono 19, adesso alle 5 di sera devo andare al Ghero, che c'è il dottore che mi ha operato, a me Emanuele, per andare insieme. Mi vuole dare la vista perché io l'ho telefonato e sto scusi. Io ho un medio dolore, le ho spiegato tutto quanto, mi ha detto sì, tu c'hai il muscolo infiammato. Prendi queste pastiglie e poi ci vediamo 19. E niente, questa vita poi, a parte questo, lo dovevo fare per forza, perché dall'ospedale quando ce l'ho dimesso, c'è scritto prossima visita tra un mese, con un neurochirurgo, capito? Perché giustamente lui mi ha spiegato anche che dopo la pressione si infiamma qualcosa di muscolo. E lui mi ha solo strappato di camminare a piedi, con i dolori, fa carità, ma basta, basta, prendi il fumo, prendi il freno, prendi quello, ma guarda, non ti incontra. Quanto abbiamo sofferto qua. Io ho un'ora un'ora, Emanuele 4 ore addirittura, tu Emanuele te lo conosci, sì. prima che mia, le altre lettere che addirittura mi ha rassicato, perché a me l'indirizzo si era calcificato nella prima dorsale, meno raschiata, capite? Non mi fa via più nulla, né Potere, né Moscorini, né Feldene, nulla, tutte le elezioni, le pastiglie, non mi facevo più niente. Ormai ero già 8 mesi fisso, dolore, mi sono rotto le mani e mi sono operato. E che cavolo. E beh, ormai. E quindi io ormai ho operato vita mia, sono stato deciso perché io ho operato, oh, ma è Maria, eppure mi sono andato a chi? Ho detto non posso fare così, io proprio come la depressione questa volta, no. Niente, questa infiammazione che a me quando cammino mi devo fermare e sedermi, perché mi fa troppo male. Mi prende dalla natica fino alla coscia dietro. E non è posso subito, non è come prima, prima il dolore era diverso, molto peggio. Però questo dolore che si fa sebusa è caipita. Domattina lo prende Emanuele alle 8. Tu lo conosci Emanuele Cicco, sì? Quei pari innocenti anche da piccolo, però so se mette, non ti dare caldo. E tu puoi fare vedo anche a Pico meno peggio. O da Marcito, Marcito non so che cosa bene sta, non so, è abbastanza un po' di cosa. Ho detto, da Marcito non so se cosa quello che abbiamo fatto, se cosa è più di Pico meno o più di Pico meno, non so. E sono fini, quindi sono fingati. E vabbè, io quello che ho aggiunto sotto da 2 litri, da 2 pulici, quello è tipo d'acqua, quello è bello grosso, lì. Io l'ho fatto sempre troppo grande, da 2 pulici, qualcosa è quello che ho iniziato. Allora era troppo largo, cosa ho fatto? Io ho bucato una parte e l'altra, ho fatto mezzo della vite passante, 2 bulloni, così. E poi siccome c'era troppo spazio, avevo messo tutto il silicone intorno con lo spazio che c'era, poi in altre giornate ne ho localizzato, ma con queste parti erano le 3 lavori. E è perfetto. E si avvicini troppo a troppa branca. Anch'io secondo me non vicino verso il sistema. E si sta leggendo fra, ma tu la conosci a Maruella, mia figlioccia? È mio figlioccio. L'ho presumato. L'ho presumato a Maruella. Cambia radio. Intanto che tu cambi la radio, io la faccio, io la faccio un po' di acqua a capire. Sì. Franco, sì. Franco. Ehi, Franco. Franco, sì.